Nella puntata di oggi di Festivals Backpack intervistiamo un artista che a me piace tantissimo, che ho sentito una volta un po' di tempo fa sul tetto di un palazzo su un lago in Lombardia. C'è una cosa particolare e che tra pochissimo però sarà un po' più accessibile che il tetto di un lago in Lombardia, ma sarà insomma qua a Bologna. Sto parlando di Auroro Borealo, che è qui con noi a Radio Città Fugico per raccontarci un pochino del suo tour. Ciao Auroro, benvenuto. Ciao, grazie per il vostro invito. Come stai? Invito. Bene, grazie, tu? Tutto bene, come dicevamo prima è lunedì, quindi insomma è un po' complicato. La nostra intervista la sentiremo tra un paio di giorni, ma siamo a inizio settimana. Una settimana che finirà però con il tuo concerto, infatti tra pochi giorni sarai qui a Bologna, giusto? Esatto, non vedo l'ora, sono sempre molto felice di suonare a Bologna perché c'è sempre una bella vibe. Ma tu invece di dove sei, Auroro? Io ormai vivo da tantissimi anni a Milano, da più di 20 anni, però sono mezzo bresciano e mezzo umbro, una combo un po' strana, una combo un po' del male. Una combo particolare che poi si riflette anche in Auroro Borealo, no? Che è questo personaggio un po' particolare a livello, diciamo, performativo, se vogliamo metterla così. Infatti io mi immagino che tu all'anagrafe non sei Auroro Borealo. Purtroppo no, però ormai praticamente anche mia madre mi chiama Auroro, quindi si vede che è un nome che rimane abbastanza impresso. Elio, di Elio le Staretese, dice sempre, cioè diceva tempo fa, diceva Auroro Borealo è il nome più bello che io abbia mai sentito, anche senza musica, quindi mi ha sempre fatto molto ridere e molto piacere allo stesso tempo. No, mi chiamo Francesco. Abbiamo svelato quindi l'identità di Auroro Borealo, grande gossip, un po' come Liberato, no? Adesso sappiamo chi è Auroro Borealo. Esatto, Auroro Liberato. E ti volevo chiedere com'è nato la scelta intanto del nome e questo progetto. Allora, la scelta del nome in maniera assolutamente casuale. Suonavo con un gruppo prima, in realtà esiste da tantissimi anni il nome Auroro Borealo, esiste dal 2005. Questo gruppo con cui suonavo quando ero ragazzino era una cosa un po' matta, strano a dirsi. Cercavo un nome che fosse esotico, diciamo, ma gira dal femminile al maschile. C'era questo mio amico che si faceva chiamare Martino Stello e aveva detto: ma se c'è Martino Stello ci deve essere anche Auroro Borealo. Quindi è nato veramente a caso. E allora mi sono un po' in imbarazzo a chiamarlo progetto perché mi sembra la cosa più distante dalla progettualità che ci sia. Però diciamo che in realtà è nato perché fino al 2017 suonavo con questo gruppo, quest'altro gruppo che si chiamava Il Culo di Mario, che mi piaceva tantissimo, mi divertivo molto. E purtroppo il gruppo si è sciolto e quindi mi sono trovato ad andare avanti da solo. Avevo questo nome lì in saccoccia da tempo e ho detto vabbè, vado avanti con questo nome qui. Cioè, avevo già l'account Instagram perché era sui social e quindi in maniera del tutto casuale. Però diciamo che da Il Culo di Mario a Auroro Borealo forse c'è stato un upgrade. Un upgrade a livello musicale com'era Il Culo di Mario? Terrorismo totale, proprio dava un nuovo senso al concetto di lo-fi. No, allora l'altro ragazzo che suonava con me era molto bravo, è Mannucci, che tra l'altro è un autore televisivo molto conosciuto e molto bravo, e lui suonava la chitarra e cantava e io producevo tutto il resto e facevo i cori, suonavo gli altri strumenti. Era sì, dai, lo-fi, era, diciamo, ci ispiravamo ad Ariel Pink, ma poi nei risultati i risultati erano molto più scarsi. Però ci divertivamo molto, andavamo in giro anche se non c'era nessun motivo logico per cui dovessimo suonare in giro, eppure suonavamo in giro. Ci siamo un po' persi a parlare del passato, però torniamo un attimino al presente, al fatto che appunto venerdì tu sarai qua, il 10 maggio, tra pochissimo sarai qua. Tra l'altro io mi sono segnata questa data quando sei salito sul palco del concerto di Giancane al Locomotive e hai annunciato che avresti suonato, e per noi eravamo in fibrillazione, volevamo assolutamente fare due chiacchiere con te, perché Grazie. Questa data è un cucciolo di anziano tour. Quindi intanto ti chiederei se ti senti più cucciolo o più anziano e che rapporto hai con gli anziani in particolare. E poi questo tour un po' cosa racconta? Allora, gli anziani e i bambini mi fanno sempre piangere, cioè sono tipo le categorie che proprio mi commuovono di più. Dopodiché è molto difficile dire se sono più cucciolo o più anziano, perché poi il concetto è proprio quello, cioè che ho già le rughe ma ho ancora i brufoli, cioè sono tipo un bambino con il mutuo, capito? Quindi, però mi sento sicuramente più anziano, anche perché faccio una vita molto intensa e quindi faccio mille robe. Mi piace fare tante cose, tenermi sempre attivo. Tenermi sempre attivo sembra tipo una pubblicità delle bevande per garantire la regolarità intestinale. Comunque, o anche dell'olio cuore, secondo me. Dell'olio cuore. Mi piace tenermi sempre attivo e quindi in realtà secondo me ho fatto la vita di tre persone, quindi sicuramente mi sento più anziano. Finché l'energia tiene andiamo avanti. Anche questa è una cosa da anziano. Poi puoi anche dire opla mentre ti alzi, se vuoi. Opalai. Infatti è tornare il disco, uno dei dischi del mio gruppo prima, Il culo di Mario, si chiamava Opalai. Allora, dopo questa prima chiacchierata, io mi sono accorta che stiamo anche chiacchierando da un po', quindi farei una piccola pausa e ti chiederei di scegliere una canzone da farci ascoltare. Allora, l'ultimo singolo che è uscito si chiama Giù dal Pero e l'ho fatto insieme a Martelli e siamo arrivati in semifinale a Una voce per San Marino. Allora l'ascoltiamo immaginandoti all'Eurovision e poi torniamo da te per continuare a chiacchierare. Torniamo qui da noi per prepararci all'evento che ci sarà venerdì. Appunto, tu sei un artista non convenzionale. Auroro Borealo è un personaggio non convenzionale. Il tuo concerto come sarà? Cioè, cosa ci aspettiamo? Una specie di otto volante, di montagne russe, nel senso c'è si balla, c'è la disco, c'è il rock, c'è il punk, ci sono dei momenti acustici. Mi piace molto costruire tutti dei momenti ben definiti all'interno dello spettacolo dal vivo e che in realtà si integrano tra di loro e che permettono di avere una curva, capito, di intrattenimento. Questa cosa per me è molto importante perché prima che un cantante, un musicista, bla bla, mi sento un performer. E in realtà poi dopo il concerto farò anche questo DJ set incredibile che si chiama La Stupidera, che è un DJ set che stiamo portando in giro ormai da 2 anni e che per esempio a Milano va sempre sold out, dove metto tutte le più grandi hit degli anni 90, 2000, 2010 di ogni genere, anche qui insieme a dei balleri che si chiamano i Belli Impossibili, che ovviamente a discapito del nome non sono così belli e non sono così impossibili, ma sono molto bravi a intrattenere il pubblico facendo un po' cubisti, un po' animatori. Quindi dopo il concerto ci sarà anche questa ulteriore serata di DJ set abbastanza frenata, diciamo. Io la stavo puntando da un po', infatti, anche perché ero abituata a i DJ set un po' stupidi ci sono, si sentono in giro, no, non è, però ho capito che c'era qualcosa di diverso e adesso che me l'hai raccontata io non vedo l'ora che sia venerdì. Io ti volevo chiedere un'altra cosa: quali sono i progetti per il futuro? Perché dopo Aurora Boreale e dopo stai preparando anche qualcosa per il futuro? Beh, in realtà a fine mese al Miami, all'Idroscalo, farò un musical, okay. Che è una cosa detta così abbastanza, e vediamo come va. Se sopravviviamo, magari l'idea sarebbe farlo uscire proprio e magari portarlo in giro in tournée. Quindi adesso siamo concentrati su questo musical, poi vediamo, prima o poi dovrò fare anche un disco nuovo, ma ho delle canzoni ma devo ancora metterle in ordine, quindi per ora siamo concentrati sul musical e vediamo cosa succede. Poi in mezzo c'è l'estate con tutte le date estive, che quindi sarà, immagino, esatto, un po' impegnativo anche quello. Chiuderei con una domanda quasi seria: possiamo dire che Auroro Borealo come progetto, non progetto come l'hai definito prima, non proprio progetto, è votato all'ironia in un qualche modo, però normalmente per fare un progetto del genere ci vuole anche una grandissima serietà, perché non niente lasciato al caso. Cioè, ti aspettavi che sarebbe diventato così Auroro Borealo quando hai iniziato questo progetto? E domanda 2: le influenze che stai prendendo, influenze musicali, anche parlando appunto della Stupidera e anche del concerto che ci dicevi presenterà punk ma anche cose un po' più leggere, queste influenze da dove vengono? Dunque, se c'è una cosa che ho capito dal mio gruppo precedente, che appunto si chiamava Il culo di Mario, è questa: non importa quanto tu possa far schifo, quanto la tua musica possa far schifo, tu pensi che la tua musica faccia schifo, nel mondo ci sarà sempre almeno una persona a cui quella cosa che fai piace. Quando ho capito questa cosa qui, in realtà mi stupisco, ma non mi stupisco, nel senso che se questa cosa a me piace, ci sarà nel mondo qualcun altro a cui questa cosa piace. Quindi in realtà per me è già un privilegio la possibilità di poterla far arrivare alle persone che possono apprezzare questa cosa. E le influenze, in realtà, beh, insomma, completamente allievo di Frick Antoni, che era mio maestro, e poi ho avuto la fortuna di poterci collaborare, di poterlo chiamare amico in un certo senso, e quindi Frick Antoni su tutti, ovviamente Frank Zappa, naturalmente sono cresciuto con lui e le Storie Tese, questi sono i più semplici. Poi in realtà è veramente difficile, mi piacciono per esempio tantissimo gli Hives, mi piacciono i Pixies, mi piace una certa parte di rock and roll, quindi insomma un po' tutto, però dai, ci metterei sicuramente sopra tutti Anthos, sono i primi che mi vengono in mente, seguiti da Frank Zappa. A questo punto io ti chiederei, se hai voglia, prima di salutarci, di scegliere una canzone, anche per prepararci al concerto che, ricordiamo, sarà venerdì 10 maggio qua a Bologna al Locomotive. Con piacere, ho scelto il pezzo Gli occhi del mio ex, che è il mio evergreen, e spero di vedervi il 10 maggio al Locomotive. Perfetto, incroceremo gli occhi di tutti gli ex presenti, chissà cosa succederà. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie, Francesco, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.